La frontiera. Trionfanti di gioia affrontammo il deserto tra sobbalzi e scossoni. Nessun ostacolo si frapponeva ormai tra noi e il paese degli afghani, splendida e quasi sconosciuta contrada. Presto ci sarebbero state rivelate le grandi montagne, le tribù magnifiche, i fiumi ghiacciati, le rovine antiche come il mondo e la pace di quella terra isolata. Lanciavamo grida di vittoria, ci felicitavamo reciprocamente, da parte mia ridevo come una bambina, dicevo le prime sciocchezze che mi passavano per la testa. L'ora era bella. Nel buio della notte i fari ritagliavano un cerchio di luce e lungo il loro fiume dorato immensi uccelli, sorti dall'oscurità, si abbandonavano al volo, mantenendo o ristabilendo la rotta con impercettibili colpi d'ala. Non si vedeva altro che il pallido chiarore del loro ampio petto. Potevamo augurarci scorta più sontuosa. Forse volteggiava fra loro, sorvegliandoci anche il nobile avvoltoio Simurgh. Suoni strani si sovrapponevano al ronzio del motore quando la coppa dell'olio incontrava i duri cardi di cui era irta la strada. Talvolta illuminavamo sagome inattese di gigantesche cicute dominanti leghe e leghe di erba secca. All'improvviso fummo costretti a frenare. Due uomini, turbante bianco, denti bianchi, panciotto a vita su un'ampia tunica bianca, calzoni a sbuffo dalle pieghe profonde, ci tenevano sotto tiro. Il momento era, e soprattutto il loro atteggiamento costituivano una così perfetta introduzione all'Afghanistan che esclamai ridendo: «Non sono forse splendidi come vi avevo detto?» Ci fermammo accanto a loro. Un soldato, si trattava in effetti di soldati di frontiera, non ancora infagottati, grazie a Dio in uniformi khaki, si accovacciò tra il radiatore e il parafango, mentre l'altro, dopo essersi arrampicato come un gatto lungo lo schienale, tenendo sempre ben stretta l'arma, si lasciò cadere tra di noi e ripartimmo. Due curve a gomito segnavano la frontiera esatta. In una sorta di allegra frenesia parlavo. Non fatevi ingannare, Cristina. Questo deserto è simile a quello iraniano, così come un nativo di Mashhad assomiglia a uno di Herat. Eppure noi stiamo attraversando una frontiera che separa due paesi del tutto diversi. Due modi di vivere, reciprocamente disprezzati, sembrano essere all'origine di tale contrasto. Il Rais iraniano ci commiserava perché presto avremmo viaggiato fra quei selvaggi afghani e sono pronta a scommettere la mia cinepresa che il capo afghano ripeterà quanto ho sentito dire 2 anni fa. Con gli iraniani, esseri striscianti e servili, è meglio non avere a che fare. Qui, dove le usanze non sono ancora cambiate, dove il figlio pensa allo stesso modo del padre, gli uomini hanno conservato la loro dignità umana. In Occidente, invece, i mutamenti continui non offrono a nessuno, e ai ricchi meno che a tutti, né stabilità di giudizio né sicurezza per l'avvenire, neppure in tempo di pace. Qui non vedrete, come in Iran, donne di facili costumi con vestiti troppo corti e tacchi troppo alti. Siete nel paese senza donne, abitato da uomini con il capo avvolto di candida mussola, calzati di grosse scarpe chiodate a forma di gondola. Siete nel paese che nessuno è mai riuscito a soggiogare. Di volta in volta hanno tentato Alessandro Magno, Tamerlano, Nadir Shah e John Bull, ma invano. In una Svizzera asiatica, uno stato a sé stante, senza colonie, senza accesso al mare, una terra dagli alti rilievi dove vivono 5 razze e dove si parlano 3 idiomi totalmente diversi. Qui i montanari sono gente semplice, ma i cittadini. E lasciavo scorrere il flusso delle parole senza badarci, distratta dalla presenza del nostro nuovo compagno di viaggio, incuriosita da quali pensieri potessero passargli per la mente. Certo, si chiedeva chi mai fossero le 2 straniere così loquaci che gli sedevano accanto. Forse l'automobile era stata rubata dall'altro lato della frontiera. Eravamo veramente delle donne? La tenue luce del cruscotto rischiarava delicati menti femminili, ma i capelli erano tagliati corti. Non riuscendo a chiarire il mistero attraverso faticosi tentativi di conversazione, l'afgano decise di passare a mezzi più facili. Lentamente fece scivolare ambedue le mani lungo le curve del nostro busto. La situazione diventava ridicola. Non potevamo permetterci di mostrarci offese, inimicandoci così quegli afghani dalle movenze feline, dato che eravamo di fatto in loro potere. Minacce e spiegazioni sarebbero state parimenti inutili. Reprimendo il riso, cercammo di mostrarci imbarazzate, nella speranza che capissero il nostro stato d'animo. La meta doveva essere vicina. Un edificio rettangolare e moderno in uno spazio vuoto, un lunghissimo corridoio, una lampada a petrolio, una sala d'attesa riparata da pesanti tende, tavole e sedie ricoperte di feltro, costituirono lo scenario della nostra prima notte afghana. Distesi sacchi a pelo sotto la finestra, da cui con qualche probabilità sarebbe arrivato un alito d'aria fresca, ci addormentammo con un sorriso di vittoria sulle labbra. Ben presto, però, fummo risvegliate da un brusio proveniente dall'esterno. Inquiete, ascoltammo. Era una voce maschile. Dovevamo difenderci, ma come non avendo armi? E fu allora che scoppiamo nell'ultima e forse più bella risata della giornata. Quel bandito stava mendicando una sigaretta. Canum, cigret, cigret canum, signora, una sigaretta. La frontiera era effettivamente chiusa a causa del colera. In 4 settimane soltanto una macchina turca era passata dalla dogana di Islam Kalah. La pista che prendemmo l'indomani mattina sembrava abbandonata. Il capo doganiere era stato gentile, parlava il russo e portava un fez di astrakhan grigio. I suoi occhi azzurri illuminavano un volto dalla pelle ambrata. Sui nostri passaporti era stato apposto un timbro con lo stemma dell'Afghanistan, 2 minareti ai lati della facciata di una moschea a cupola. Islam Kalah era cambiata dall'ultima volta che vi ero passata. Si chiamano Kalah le grandi fortezze afghane e una di queste doveva un tempo innalzarsi qui. Non esisteva più il vecchio caravanserraglio dalle stanzette ombrose e riposanti dove avevo fatto la siesta 2 anni prima. Forse anche l'Afghanistan si era lasciato contaminare dalla malattia iraniana di demolire tutto quanto sembri antico. Un sole radioso, il rumore ritmato del motore nella solitudine della piana desertica, l'attesa delle montagne che presto sarebbero apparse dinanzi a noi. Sapevo che Cristina era felice, tanto quanto è umanamente possibile. Ci avvicinammo a una collina di sabbia, la cui base, larga e increspata, aveva ricoperto la strada. Lanciammo la Ford su questo ostacolo, sperando di raggiungere un piccolo ponte a 15 metri di distanza. 15 metri che ci valsero 3 ore di dura fatica. Avremmo affrontato una simile impresa sapendo prima che cosa ci aspettava? Come solitamente accade in tal genere di incidenti, ripetevamo. Ancora uno sforzo e ne verremo fuori. Utilizzammo il cambio, ma le ruote slittavano e giravano a vuoto, sprofondando sempre più nella sabbia. Sedute studiammo il da farsi, decidendo di servirci della pala comprata in Jugoslavia, e le nostre mani si riempirono di bolle. Facemmo scivolare gli embrici di Teheran sotto gli pneumatici, sudando come schiave sotto quei cappelli triestini, bestemmiando in russo e in tedesco, ma ognuno dei nostri attacchi non ci faceva guadagnare che pochi centimetri. Fui la prima a dichiararmi vinta. Contrariata, sfinita, mi fermai mentre Cristina ancora lavorava di pala. Dove nascondeva quella forza di cui dava prova? A cosa servivano quei muscoli di cui in genere andavo tanto fiera? Infine, con immensa gioia, vidi arrivare 3 uomini. Li salutai con il mio più bel sorriso e a gesti, che certo non ebbero difficoltà a capire, chiesi loro aiuto offrendo al più giovane la pala. 2 di loro si misero alternatamente al lavoro per qualche minuto, mentre il terzo, seduto, sembrava annoiarsi. Proprio quando stavo ringraziando la nostra buona stella, li vidi andarsene. Cercai di trattenerli pronunciando la parola Bakshi, che ritenevo idonea a far loro cambiar parere, ma invano. Molto semplicemente non volevano mance di nessun genere. Non ci trovavamo più nel paese degli iraniani. E dovevo stupirmi ancora sentendoli ridere allegramente nel vedermi riprendere il foulard che, non so come, era al collo di quello che era rimasto seduto. Finalmente le gomme fecero presa sull'impiantito del ponte. Poco lontano, oh ricompensa insperata, la gialla distesa del deserto era come tagliata in 2 dall'indaco intenso di un fiume che ci veniva incontro. Quasi accecate dal riverbero del torrido mezzogiorno, corremmo verso l'ombra di un vecchio ponte massiccio e, liberateci dalla stretta umida dei vestiti, in equilibrio su una roccia, ci incantammo alla meraviglia di quel blu che presto ci avrebbe accolte. Madide di sudore rabbrividivamo al forte vento, malgrado i 45 gradi di temperatura. Allora, senza più indugiare, ci tuffammo. Immerse fino al collo nel fiume, svanita ogni nostra stanchezza, il corpo leggero come una piuma, nuotavamo in una sorta di paradiso. Acque carezzevoli lambivano dolcemente le nostre membra, acque turchine in cui perdersi come in un altro mondo, mentre esclamazioni di gioia echeggiavano nell'aria. Quel corso d'acqua aveva la sua sorgente tra le vette dell'Azarajat, ancora invisibile per noi, tra le montagne dell'Afghanistan centrale, dove l'alto Bamiyan respira in pace, per scorrere poi sotto il nome di Hari Hud, nei pressi di Herat, nostra prossima tappa, e perdersi dopo aver segnato la frontiera tra Iran e Afghanistan in mezzo alle sabbie del Turkmenistan sovietico. Un grido interruppe quell'istante di pura estasi. Dalle mani di Cristina era scivolato via per sempre un liscio pezzo di sapone, il terzo che senza volerlo offrivamo alle Nereidi dei fiumi asiatici. In piedi, sulla riva, la mia compagna chiedeva perdono. Aveva fianchi tanto magri che guardarli mi fece male. Ripensai ai giovani portatori indiani a cui rassomigliava. Assonnate, cercammo un luogo ombroso dove distenderci per un'ora. Un khan, solitario e decrepito, sembrava invitarci, ma ai piedi di un suo muro, al riparo dalla violenza del vento, si erano già sistemati alcuni vagabondi. Proseguimmo, sperando di trovare lungo la strada una roccia o un cespuglio, ma inutilmente, in quel desolato mondo incolore, nulla cresceva sotto quel sole infuocato. Finalmente intravedemmo tra le palpebre socchiuse, a 1 o 2 chilometri verso nord, un villaggio di colore giallo spento, o meglio, le sue fortificazioni. Alte mura con due torri tondeggianti a guardia dell'entrata, assai simili a quelle viste a Ghazni. L'unica macchia verde di quel luogo, un orto chiuso, si trovava lungo la parete settentrionale. Nel deserto si innalzavano isolate altre tre torri, massicce, squadrate, con strane fenditure verticali. Avvicinandoci scoprimmo che in cima a quelle aperture vi era una complicata attrezzatura, ma soltanto quando giungemmo ai piedi delle costruzioni capimmo di che cosa realmente si trattava. Erano mulini a vento, con grandi ali di paglia intrecciata, issate su un'immensa armatura. Avevano un aspetto antico e ingegnoso, simile a quello delle grandi ruote di irrigazione cinesi. Uno dei lati era orientato in modo da dirigere il vento di 120 giorni verso le pale della ruota. Su un altro muro, file di piccoli fori formavano un motivo di orlo a giorno, dando alla semplice costruzione una nota di eleganza. Quelle fessure servivano forse a richiamare l'aria o a dare sfogo a certe correnti. All'ombra del mulino, una donna velata diceva le sue preghiere prosternata. Impossibile trovare riposo in quel luogo, poiché una frotta cinguettante di ragazzini accorse subito in uno svolazzare di lunghe e ampie tuniche. Ci attorniarono con un misto di riservo e di spontaneità, nuovi per noi che venivamo dall'Iran. Un medesimo atteggiamento tennero poi i loro compagni più grandi, incontrati al termine della pista nei pressi delle fortificazioni. Una diga, su uno stagno poco profondo, conduceva alla grande porta. A una certa distanza, lungo le mura, un pastore spronava il suo gregge di pecore nere e bianche. Sotto il cielo azzurro intenso e tra le tinte scure del paesaggio brillavano gli abiti dei paesani splendidamente bianchi. Eravamo fuori dal tempo e dallo spazio, lontane da tutto ciò che conoscevamo. Credo che il villaggio si chiamasse Shabash. Non cercammo di sapere altro. Da dove lo guardavamo era perfetto e tanto ci bastava, temendo di scoprire all'interno soltanto case semidiroccate. Era meglio, come per i quadri d'autore il cui tergo non mostra che colle e chiodi, accontentarsi di ammirare la facciata. Ripartimmo e appena fummo fuori vista, fermata la macchina in modo da avere un minimo d'ombra, ci addormentammo nel bel mezzo della strada internazionale. Al nostro risveglio, verso fine pomeriggio, dinanzi a noi vi era un contadino che ci stava osservando. Reggeva sotto il braccio tre piccoli meloni che subito ci offrì, mostrando in un sorriso i suoi splendidi denti. Che sollievo per i nostri corpi riarsi! L'uomo si allontanò in un campo incolto dopo aver rifiutato gentilmente il denaro offertogli. Gli afghani non sono tuttavia tutti così dolci. Alcune settimane dopo ci capitò di trovarci con due ruote in un fossato. Quattro robusti montanari passavano di là con i loro turbanti neri, i panciotti ricamati su vesti di lino, gli occhi pesantemente segnati di polvere nera. Sembravano briganti. Quando ebbero rimesso la macchina sulla strada, Cristina mise in mano del più alto un biglietto da 5 afghani. Egli lo guardò, alzò gli occhi su di lei, lo restituì e poi se ne andò, sempre senza dire una parola. Mai avevo visto sguardo e atteggiamento tanto fieri. In un altro luogo, lontano da tutto, avremmo potuto pensare che quel denaro era superfluo per un nomade perché inutilizzabile, ma non era certo il caso della strada a sud di Kabul, dove a ogni villaggio o borgo vi è una chaikhana a tentare il viaggiatore assetato. Continuammo alla volta di Herat, con animo lieto e sereno. Non solo eravamo al fine giunte nel nostro paese, tra virgolette, il paese che avremmo studiato con amore, ma le persone incontrate quel giorno sapevano sorridere con gentilezza o comunque si comportavano da uguali e non come relitti umani. Si muovevano con naturalezza in un mondo a loro misura. Herat. Ritrovarmi nel piccolo albergo di Herat, situato fuori dalle fortificazioni della città vecchia, mi suscitò ricordi di cui misi a parte Cristina. Il vetro che copriva la cannicciata sopra la sala da pranzo sbatteva come allora. Sembrava che tutti i jinn, tutti i piccoli geni menzionati nel Corano, da Riana lo scuotessero per poter entrare. Quel mio primo soggiorno era stato turbato da alcuni incidenti. Venuto a sapere del mio mestiere di giornalista, il ministro iraniano di Kabul aveva esitato a concedermi il visto per il suo paese. Doveva prima assicurarsi che fossi persona grata al suo governo. Dopo 3 settimane, però, Teheran non aveva ancora risposto al nostro telegramma e io ero partita, decisa ad attraversare la frontiera a ogni costo. Arrivata a Herat, facendomi passare per una turista, avevo chiesto al console iraniano il permesso di visitare Mashhad. Aveva detto di sì, ma quella parola in Oriente può significare molte cose. Quando infatti andai a ritirare il mio passaporto, la procedura fu così lunga che perdetti l'unico pullman della settimana per Mashhad. Sebbene abituata alle estenuanti complicazioni dei viaggi di oggi, mi irritai notevolmente, anche perché impegnata per il mese seguente in un giro di conferenze in Scozia. Non avrei più avuto il tempo necessario per ottenere le interviste con Reza Shah e Kemal Atatürk, richieste dal mio giornale di Parigi. Recuperai alfine i miei documenti, ma proprio quando stavo complimentandomi con me stessa per l'ingegnosità dimostrata, venni a sapere che il permesso del mio visto era stato telegrafato da Kabul. A parte questo contrattempo, il mio soggiorno era stato abbastanza piacevole. Avevo conosciuto il giovane governatore, vestito di un elegante completo blu, alla cui tavola mi era stato offerto un pranzo a base di riso pilaf in molte varianti. Ero anche riuscita a intervistare il solo europeo di Herat, a parte il console russo, un ingegnere tedesco ormai insofferente a tanto isolamento che a ogni nostro incontro mi ripeteva quale grande gioia fosse per lui poter finalmente parlare con qualcuno. La moglie doveva raggiungerlo, ma egli temeva di non reggere fino al suo arrivo. Sovraffaticato, assillato, aveva uno sguardo inquietante, come perso, e i miei tentativi di farlo parlare del suo lavoro cadevano nel vuoto. Era il responsabile della nuova Herat e si occupava altresì della costruzione di ponti nella provincia. Quando vi si recava, viveva con i nomadi. Venendo a sapere che cercavo nei bazar un paio di tappeti, quelli chiamati sacchi di cammelli, insistette per vendermi i suoi, dicendomi che non aveva difficoltà a ordinarne altri nuovi. In seguito però volle assolutamente regalarmeli. Un giorno mi mostrò una pezza di seta nera con cui evidentemente sperava di far breccia nel mio cuore. La scena cadeva nel ridicolo e decisi così di non frequentarlo più, anche se in tal modo mi sarei dovuta privare dei suoi pettegolezzi sulla strana città. Passavo i pomeriggi nei pressi della tomba di Jawarshad, la principessa a cui si doveva la costruzione della perfetta moschea di Mashhad. Vi arrivavo seguendo una strada ombreggiata da pini. L'ingegnere tedesco mi aveva raccontato che chi lasciava le proprie capre nutrirsi di giovani piante incorreva nella pena di morte, unico mezzo per far capire agli afghani l'importanza del rimboschimento. File di pini verde cupo bordavano un pallido campo di grano, la cui distesa ondulata era disseminata di vestigia del passato, 6 o 7 minareti che da lontano parevano camini di fabbriche. Ma quando ci si accostava, si imponevano i bagliori di mosaici blu, il candore delle grandi iscrizioni, la levigatezza dei pannelli di marmo. I 2 minareti più alti erano assai imponenti e di forma cilindrica. Gli arabeschi incastonati di turchesi, staccatisi in parte, avevano lasciato scoperta una superficie rugosa di terracotta scura. Per contro, i minareti più vicini alla tomba erano di splendore incomparabile. La densità del colore, la precisione dei motivi floreali, la luminosità diffusa da quelle orgogliose colonne mi spingevano a girare loro intorno per trovare l'angolazione esatta da cui scattare la fotografia che avrebbe reso giustizia a quei gioiosi contrasti di colore. Eppure sapevo che i toni vellutati degli smalti non sono riproducibili al pari della lucentezza di un sontuoso tappeto. Sul lato opposto del campo, una cupola scanalata poggiava su 4 mura. Era il sepolcro di Jawar Shad, mausoleo di semplicità esemplare al cui cospetto si è invasi da un'assoluta pace. Come quando inerpicandoci su una montagna assistiamo al miracolo dell'intensificarsi di ogni colore: il cobalto delle genziane, il verde dei prati, il rosa dei rododendri. Così avviene per i mosaici dell'Asia via via che si risale nel passato. Ma allorché giunti sulle alte vette non vi sono che rocce e ghiacciai a occupare la scena, scomparso ormai ogni tipo di vegetazione, allo stesso modo mi risulta che prima del XII secolo, non esistendo ancora smalti colorati, il mattone, nudo e ascetico, regni incontrastato insieme con il candore degli stucchi. Cristina e io stavamo sedute contro le rovine di Jawar Shad. Il vento e un bambino erano le sole presenze in quel nostro mondo. Il ragazzino, dal pallido viso intelligente, sotto un turbante nero, ci spiegava con una mimica veloce la ragione di un buco, per noi misterioso, scavato nella pietra di una tomba in rovina antistante il mausoleo. Chi soffre di mal di gola pesta con un sasso alcune bacche in questo mortaio improvvisato per mangiarne poi la pasta, ed ecco che chi non aveva più voce, e qui il bambino simulò i rantoli del malato, può di nuovo parlare. Naturalmente la guarigione viene attribuita allo spirito del santo qui sepolto. La città di Herat, vicina al fiume Harirud, esisteva già in tempi antichissimi con il nome di Haraiva nel Vendidad di Attakuan, di Alexandria Ariorum o di Heri. Era un'importante tappa lungo la via che, passando dal Pamir e da Balkh, portava dalla Cina sete e giade nella valle della Mudaria. A Soltanie avevamo avuto notizia degli Ilkham mongoli annientati da Tamerlano alla fine del XIV secolo, mentre queste rovine ci introducevano nella storia dei Timuridi del XV secolo, ai tempi dell'età dell'oro di Herat, quando Samarcanda aveva cessato di essere la capitale dell'Asia centrale. In epoca posteriore, Babur, che invase l'India nel XVI secolo non avendo potuto conquistare Samarcanda, visitò in giovane età Herat, poco prima che i mongoli uzbeki se ne impadronissero nel 1506. Superando tempo e spazio, leggiamo che l'ultimo dei Timuridi, il mogul Bahadur Shah II, fu deposto e poi esiliato a Rangoon nel 1857, mentre figli e nipoti venivano giustiziati. Da quel momento toccò alla regina Vittoria regnare sull'India. Gli storici cinesi scrivono che i Timuridi erano soliti inviare tributi all'imperatore della Cina. Uno di loro racconta che nel 1410 l'ambasciata cinese riportò da Herat, facendogli attraversare il gelido Pamir, un leone dono di Shahrukh, figlio di Tamerlano, all'imperatore. Un altro ambasciatore cinese ha lasciato una descrizione di Herat risalente alla seconda metà di quel fastoso XV secolo. Egli annotò molte usanze opposte a quelle cinesi. Le case sono costruite in pietra e hanno l'aspetto di una terrazza sopraelevata. L'interno, che comprende decine e decine di stanze, è vuoto. Porte e finestre sono di legno splendidamente scolpito, ornato d'oro e di gemme. Il suolo è coperto di tappeti sui quali le persone siedono a gambe incrociate. Gli uomini si fanno rasare la testa per poi avvolgerla in una lunga striscia di stoffa. Le donne hanno capo e viso coperti con un mantello bianco in cui vi sono due aperture per gli occhi. Il bianco è il colore della gioia, il nero indica lutto. Quando mangiano non si servono né di cucchiai né di bacchette e hanno piatti di porcellana. Il vino è fatto con l'uva. Ogni 10 monete marchiate con il sigillo del re ne pagano 2 d'imposta. Due sorelle possono essere le spose di un solo uomo. Il lutto dura 100 giorni. L'uso delle bare è sconosciuto e si avvolgono le salme in un lenzuolo funebre. Non sacrificano gli antenati e pregano il cielo. Tali costumi non sono cambiati di molto, eccezione fatta per le case moderne in semplice pisé passato a calce. La vecchia Herat veniva via via demolita per far posto a nuove costruzioni. Mi hanno raccontato che il governatore, accompagnando un ingegnere svizzero in un giro per la città, gli aveva mostrato un'antica casa in vendita per 3.000 franchi svizzeri. All'interno, il suo ospite aveva scoperto marmi levigati, vetri dipinti, legni scolpiti con incastonature d'ottone e d'argento. Sorpreso, aveva esclamato: «Invece di essere venduta, una simile dimora deve essere preservata e restaurata dai vostri archeologi francesi». Sua Eccellenza si rende conto che si tratta del primo esempio di arte artigianale da me incontrato in Afghanistan. Voi afghani desiderate rinnovare il vostro paese e ricostruirlo in modo da esserne fieri, ma non siamo noi stranieri a poter fare questo per voi. Tutto ciò deve nascere dal vostro proprio entusiasmo. Lei deve essere orgoglioso di una casa come questa. La proponga come modello ai suoi operai. Mostri loro a quale maestria sorgevano i vostri antenati. Dica loro: gli uomini costruiscono con abilità e passione quando la patria è libera e forte, e l'Afghanistan di oggi lo è. Chissà. Forse quel cinese del tempo passato e l'ingegnere svizzero osservarono il medesimo edificio. Dopo la morte di Tamerlano, avvenuta nel 1405, fu suo figlio Shahrukh a regnare su Herat. Egli ereditò dai genitori un po' di sangue mongolo. Il padre apparteneva infatti alla tribù dei Barlas, di cui un antenato era fratello di Kabul Khan, bisnonno di Gengis Khan. In quanto alla madre, Sarai Mulk Khanum, ella era figlia di Kazan, discendente in linea diretta di Gengis Khan. Jawarshad, sua nuora, sorella di Kara Yusuf della dinastia dei Montoni Neri, ebbe 2 figli, Baisungur e Ulugbek, l'astronomo. Jawarshad ordinò lei stessa la costruzione del proprio mausoleo, che esiste ancora, mentre sono andate distrutte la grande moschea di Musalla e la scuola coranica. La principessa morì all'età di 80 anni, condannata a morte dal sultano allora regnante, perché accusata di complotti in favore del proprio nipote. Sulla sua tomba fu inciso: «La Bilkis del suo tempo». 400 anni dopo, Mohun Lal, segretario di Burns, scriveva che la gente di Herat continuava a chiamarla la più incomparabile donna di tutto il mondo. Uno dei successori di Shahrukh fu Abu Said, che divenne poi sultano Hussein Baikara. Questi si circondò di uomini celebri quali Bihzad, il pittore, Mirkond, lo storico, e Jami, il poeta. Lui stesso scrisse versi sotto lo pseudonimo di Husaini. L'imperatore Babur, nella sua opera autobiografica Il libro di Babur, dà particolari che mostrano come gli Ilkhani e i Timuridi avessero tratti in comune. Egli ci offre inoltre un ritratto del sultano Hussein, il quale aveva, scrive, occhi obliqui e un corpo da leone, essendo sottile dalla vita in giù. Monarca di discendenza regale, era di sangue nobile in virtù dei genitori. Fu astemio per i 6 o 7 anni successivi alla sua salita al trono, per degradarsi poi nel vizio dell'alcol. Lungo i 40 anni di regno nel Khorasan non vi fu probabilmente giorno in cui non si diede al bere, se ne asteneva però prima della preghiera di mezzogiorno. E parimenti i suoi figli, i soldati, l'intera città ricercavano il massimo del piacere e della dissolutezza. egli era coraggioso e audace, nessuno dei discendenti di Tamerlano Beg poteva eguagliarlo nel maneggiare la spada. Babur fu chiamato a Herat dal sultano Hussein, in seguito forse alla conquista di Kabul. Avendo accettato l'invito, così scrive della città: «In tutto il mondo abitato non vi è città che possa eguagliare Heri da quando vi regna il sultano Hussein Mirza. In virtù infatti dei decreti e degli sforzi di tale uomo, essa si è accresciuta in splendore e bellezza di 10 o meglio di 20 volte tanto». Dopo quel periodo, Herat declinò rapidamente. Nel 1885, a causa dell'uccisione di Panjeh a nord di Herat di alcuni afghani per mano di soldati russi, l'emiro Abdur Rahman incominciò a temere per la stessa Herat e, su consiglio di ufficiali inglesi dell'esercito delle Indie, fece saltare la grande moschea di Musalla e la scuola coranica per non dare ai russi la possibilità di sparare cannonate dai tetti di quegli edifici nel caso fossero giunti colà. Condussi Cristina verso un'altra costruzione di cui già conoscevo l'incanto, la tomba di Khwaja Abdullah Ansari, nel Gasurgah, luogo isolato in una vasta piana pietrosa. Secondo il colonnello Yate, il nome di Gasurgah, luogo di sbiancamento, si spiegherebbe con la seguente iscrizione: «La sua tomba è un lavatoio dove la nube del divino perdono sbianca il nero passato degli uomini». Al di là della prima cinta, riservata alle carovane, si apriva un secondo cortile con alberi, viali lastricati, acque scintillanti di un bacino. Con il capo coperto da un candido turbante, si aggiravano barbuti mullah. Molti di loro erano fuggiti da Mashhad al tempo della grande ribellione. Dietro alle alte mura si celava il terzo cortile, più piccolo e austero, disseminato di pietre tombali in lucido marmo bianco. Di fronte all'entrata si ergeva un maestoso iwan, tutto risplendente di preziosi mosaici smaltati. Tra i motivi geometrici di influenza cinese si insinuavano rossi scuri che si accendevano accanto alle tinte classiche, indaco, oltremare, turchese e bianco puro. Visitate alcune celle disposte su uno dei lati lunghi del cortile, rivolgemmo di nuovo lo sguardo verso le candide tombe tra cui fiammeggiavano al sole piccole masse di colore. Erano i tessuti a quadri rossi e gialli di giovinette in preghiera, tutte della stessa tribù. Esse ci guardarono di sottecchi. Dai loro volti sornioni trapelava il fastidio, ma anche l'orgoglio di essere state viste mentre compivano atti di devozione. Sotto un albero contorto, dietro una grata di legno, vedemmo un'alta pertica, segno della presenza di un santo musulmano. Accanto, infatti, si innalzava l'immensa tomba del venerato Khwaja. Appesi ad ogni dove, innumerevoli nastri di stoffa testimoniavano altrettante offerte votive. Vaschette di olio, guarnite di lucignoli, si riparavano in nicchie annerite dal fumo per poter essere accese in ogni momento. Sulla parte anteriore della tomba riluceva una pietra tagliata a colonna e meravigliosamente scolpita. Cesellata con la medesima delicatezza, ma di proporzioni più modeste, la tomba vicina apparteneva a Dost Muhammad, il sapiente emiro afghano morto nel 1863. E di nuovo, al pari di quando lo scoprii per la prima volta, mi lasciai catturare dalla malìa di quel luogo. Affascinata, oltre che dall'armonia del monumento, dal suo senso di grande pace e di opulenza e anche dall'atmosfera creata e tenuta viva da quegli innumerevoli pellegrini che nel corso dei secoli vennero qui per comunicare con il santo. Abdullah Ansari morì nel 1080, ma l'edificio data ai tempi di Shah Rukh. Quando Babur la visitò, vide pellegrini che svenivano sulla tomba sentendo recitare il celebre Masnavi, il poema spirituale che comprende oltre 26.000 versi ed è stato definito dalla tradizione persiana un Corano in lingua di Persia. Il Masnavi di Jalaluddin Rumi. Ansar significa fedele assistente del profeta e ha dato il nome alla setta fondata dal santo. Jalaluddin Rumi, fondatore dell'ordine dei dervisci Maulavi, parimenti ad Abdullah Ansari, era un mistico convinto che esista unicamente Dio. Una sera, ritornando dal bazar, assistemmo a un gioco avvincente. Intrufolandoci tra la massa compatta degli spettatori, tutti uomini, naturalmente, riuscimmo a vedere di che cosa si trattava. Era un duello che metteva di volta in volta a confronto due robusti uomini armati di un corto bastone che a tutta prima poteva sembrare di gomma, ma era la rapidità con cui lo maneggiavano a conferirgli quell'apparente flessibilità. Facevano finte, saltellavano come pugili sul ring, il bastone si abbatteva con violenza sull'avversario e il colpo veniva parato con il pugno protetto di cuoio imbottito. Battendo successivamente numerosi avversari, un prode tutto grondante di sudore rimase in lizza molto a lungo. Malgrado la sua obesità, combatteva con la scattante agilità di una gatta inferocita che difende i suoi piccoli. Osservavo anche gli spettatori, i loro occhi penetranti, le bocche atteggiate al riso, i visi sottili sotto il turbante in disordine, copricapo che dava loro sempre un portamento così fiero. A confronto dell'Iran, dove il turbante è stato abolito, l'Afghanistan merita una menzione speciale. I suoi abitanti, infatti, che ne hanno mantenuto l'uso, sono costretti a tenere orgogliosamente dritta la testa, essendo, come spesso succede, influenzati dal proprio abbigliamento. Quale sciocchezza adottare il meschino berretto iraniano rinunciando alla dignitosa bellezza di quella sciarpa avvolta sul capo. Perfino il semplice zuccotto che serve da base al turbante è bello a vedersi quando è ricamato in vivaci colori. Osservando l'attuale copricapo degli iraniani non desta stupore che sembrino quasi vergognarsi di se stessi. Ci allontanammo. Attiravamo troppo l'attenzione e da parte mia avrei preferito che la mia gonna fosse più lunga. Fummo presto raggiunte dal responsabile del nostro albergo, il quale in poche parole ci spiegò la situazione. Tenete presente che questi uomini non hanno visto finora che il viso di quattro Khanum, signore, la madre, la sorella, la moglie e la figlia. Incrociavamo talvolta alcune di quelle donne segregate, segrete, sagome avvolte da manti che camminavano dirigendo i loro passi grazie alla piccola grata o reticella ricamata all'altezza degli occhi. Quando si viaggia in automobile, incontrarle rappresenta un pericolo perché esse, non vedendo quasi nulla e sentendo ancor meno, vincolate dall'usanza di portare il loro sudario ben accostato alla testa e alle orecchie, si accorgono del sopraggiungere di un'auto all'ultimo minuto, spiccano allora un saltello di lato come uccellini spaventati. In Asia centrale le strade delle grandi carovane sono in abbandono e lo straniero in visita a Herat si sente ben lontano dalle moderne linee di comunicazione, quella a ovest da Baghdad a Teheran e l'altra a est da Kabul a Peshawar, sono a molte giornate di distanza. A un centinaio di chilometri a nord, una diramazione della ferrovia russa transcaspica termina a Kushk, ma funziona unicamente per la posta e le merci. Dinanzi a noi si apriva un paese grande circa 5 volte l'Inghilterra e di cui desideravamo vedere il più possibile. Speravamo di attraversare il Paropamisus, catena che si innalza tra Herat e Mazar-i-Sharif, percorrendo una strada alquanto rudimentale di più di 800 chilometri che collegava le due città. L'ingegnere polacco, che lavorava in quel periodo a Herat, ci disse però che il ponte sul Murgau, costruito dal mio amico tedesco nel 1937, era stato distrutto dalle piene primaverili. Si stava ultimando un altro ponte e avremmo dovuto aspettare che la strada fosse aperta. Le precipitazioni nevose, eccezionalmente forti, avevano al momento del disgelo danneggiato buona parte delle nuove opere. Ma la responsabilità di tali disastri era da addebitarsi tanto al costruttore quanto alle usanze asiatiche. I tecnici stranieri valutavano il prezzo di un lavoro. La somma viene pagata entro un certo tempo dal governo di Kabul, ma a causa del malcostume delle bustarelle, che coinvolge tutta la scala gerarchica fino agli alti funzionari, il materiale richiesto arriva a destinazione sempre decurtato. Se l'ingegnere incaricato sarà abbastanza coraggioso, risalirà i responsabili di tali perdite e li consiglierà di moderare la loro cupidigia. La commissione del 10%, infatti, generalmente ammessa in tutto il mondo, non dovrebbe mai essere superata, poiché soltanto così le opere necessarie all'Afghanistan potranno essere ultimate senza che la gallina dalle uova d'oro si esaurisca. Egli dovrebbe convincerli che nel giro di pochi anni ne trarrebbero un profitto forse più vantaggioso di quello ottenuto agendo secondo le vecchie abitudini, aggiungendo però che la buona riuscita di tale ragionevole metodo è legata alla stabilità del paese. In caso contrario, il timore di rivoluzioni spingerebbe gli ambiziosi ad accaparrarsi quanto più possono nel più breve tempo possibile. Ho nondimeno seri sospetti che un ingegnere tanto ardito da proferire simili verità rischierebbe seriamente di essere licenziato. Insistetti per prendere la strada a nord verso il Turkestan perché non la conoscevo ancora. La Ford non era mia e mi era facile non soffermarmi più di tanto sulla possibilità di eventuali danni.